Io non dormi io, mi tengo. Ma non con tutto scusa da niente. Come te? Come te? ないかな。 嬉しそう。 Thank you.